Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. Albert si svegliò di colpo da un sogno meraviglioso. Elmina era tra le sue braccia, il volto soffuso di indicibile emozione e umiltà di moglie. Lacrime espressive, come vere lettere d'amore, intenerivano i suoi occhi d'oro, promessa di un avvenire radioso. Dietro di lei, la giovanetta Teresa aspettava con in mano una gabbietta di canna. Nella gabbietta c'era un uccello, il cardillo morto il giorno prima. Era vivo, risorto, la malvagità della vita, essa sola era sogno. Accostando il bel viso alla gabbietta, mentre gli occhi gioiosi sbirciavano i due innamorati, Teresa tendeva le labbra nell'atto di porgere un bacio e il cardillo, con due saltelli, lietamente le si avvicinava. È vivo, la malvagità non è vera, la morte mente ed Elmina mi ama, gridò l'artista al colmo della gioia. Vedeva dietro la gabbia una grande luce rosa, era il sole che sorgeva, e il sole, sorgendo in quell'attimo ed entrando dal balcone lasciato aperto sul mare, lo svegliò. Come si svegliò? Albert, senza sentir diminuire per nulla la gioia del sogno, guardò allegramente la lettera lasciata aperta sul tavolo, anch'essa toccata dai primi raggi del sole, e decise di portarla subito, senza nemmeno rileggerla, alla casa del guantaio. In brevissimo tempo si era mutato d'abito, era già pronto per uscire e, chiesto un cavallo da sella, benché la distanza tra la locanda e il palazzo fosse minima, ma egli intendeva prolungare poi la sua passeggiata, uscì. Attraversò, come in sogno, buona parte di una città strana, misera e insieme ricca, suavemente colorata e almeno a quell'ora taciturna, o meglio, addormentata. Tutto era sogno, come in lui, tutto dormiva e dormendo rideva. Rideva soltanto? Egli giunse al palazzo attraverso un arioso cortile che immetteva in un cortile più interno, separato dal primo da un basso cancello. Accanto era la porta del custode. Scese da cavallo, chiamò. Un uomo ancor mezzo svestito, vecchissimo, gli venne incontro. Albert gli consegnò la lettera insieme a una moneta d'oro che sbalordì l'uomo. «Pour messier civile, vite!» E quindi, di nuovo sulla strada, galoppò felice lungo la spiaggia, fra l'ampia distesa color turchese del mare sulla sinistra e l'altra distesa vivacemente colorata dei giardini, in miracoloso ordine e disordine, sulla destra. Era quello il quartiere di Chiaia e procedeva, come smarrendosi, fino a un'altura soave, bellissima, tra il grigio e il verde, di cui l'innamorato ignorava il nome, seppe dopo chiamarsi Posillipo. Da lì, simile egli stesso a un raggio di sole, tanto appariva leggero e sempre più sfavillante, il pupillo del principe, dopo un'adorante sosta, che anche nella felicità più intensa al luogo, come una tregua o uno svinimento o un culmine dell'estasi, e probabilmente rammemorandosi dei suoi amici e dei nuovi beati impegni che lo aspettavano, tornò indietro. tornò ad addentrarsi così tra le ingenue case dalle facciate giallo-rosa, i palazzetti rosa, i palazzetti bianchi, in fanciullesca fila, affondati tra giardini violetti e ciuffi dorati di palme. Si perse un attimo in vicoli bui e stradine paradisiache, e percorse di nuovo la riviera adorna di negozi splendidi che intanto si aprivano. In mezzo al curioso passare e belare in frotta di capre e pecore, condotte da lattaie e lattaie addetti al rifornimento di latte per le famiglie locali. Belati di pecore e liete grida di venditori, cui cominciavano poco a poco a mescolarsi altre voci cantanti, di pescivendoli, ortolani, fioriste, acquafrescai, insomma, tutta la vita traboccante di suoni di quella città libera, selvaggia, oscura e beata insieme, nota in tutta Europa per la sua gioia, cui dava esca talora un ignoto quanto insensato dolore, giustificato, presumiamo, dalle precarie quanto strane sue condizioni politiche. Di capitale di un regno senza fondamento di bontà o ragione è perduto nello sfrenato immaginario. Negra che le caffane soggetta, a Milordo sturiente paglietta, può curriva con ganna d'arrita, che se scritto ciò può non sperrà. Milordo sturiente paglietta, ganna d'arrita, ciò può non sperrà. Negra che la castrana succeda, a Milordo sturiente paglietta, può curriva con ganna d'arrita, d'arrita, d'arrita, che se scritto ciò può non sperrà. Milordo sturiente paglietta, può curriva con ganna d'arrita, che se scritto ciò può non sperrà, che se scritto ciò può non sperrà. In breve, il nostro giovane alato era di nuovo davanti alla locanda, che vorremmo definire felice, e qui, tolto il piede dalla staffa e consegnato il cavallo a un servo di stalla, si precipitò, è la parola giusta, nella sala d'ingresso, ansioso come un bimbo dopo una breve separazione dalla madre, di rivedere il volto dei suoi amici che per lui rappresentavano quella madre. Ma una sorpresa lo aspettava. I signori, già perfettamente vestiti e stranamente silenziosi, lo attendevano nella saletta delle colazioni, ancora deserta, seduti davanti le loro tazze quasi intatte. Lo guardarono con aria costernata. «E Bion?» il radioso giovanetto disse. Gli fu risposto, senza far caso alla sua luce di gioia e ansia di nuova gioia, che durante la sua assenza, supponevano dovuta al desiderio di una salutare cavalcata, solo Neville, sfuggendo al suo sguardo lieto, sembrava conoscerne la vera motivazione, era giunto un messaggio di Messie Civile. L'invito a pranzo doveva considerarsi per ora cancellato. Durante la notte la signora Brigitte si era di molto aggravata e il marito si era affrettato a raggiungere con le figlie la località chiamata Casoria, dove la poveretta si trovava assistita da due zie. Dal tenore del messaggio che don Mariano stesso aveva lasciato alla locanda qualche ora prima, trovandosi già in carrozza per Casoria, Nodier supponeva che non vi fossero molte speranze per la poveretta di essere restituita agli affetti familiari. Il peggiorare improvviso del male lasciava temere invece che fossero ormai pochi giorni e forse le ore che le restavano. La signora Helm, così veniva chiamata anche dal marito, era in fin di vita, forse aveva già cessato di vivere, e don Mariano per ora non sarebbe certo potuto tornare a Napoli. Oh, era questo dunque il messaggio da me ricevuto, questa la gioia che il sogno mi annunciava, uscì a dire troppo commosso per essere guardingo lo scultore. E come gli amici stupiti lo ascoltavano, subito raccontò il sogno fatto all'Aurora, tacendo soltanto di Elmina e del loro abbraccio. L'immagine del cardillo risorto, della gabbietta di canna, della gioia di Teresa mentre attirava con un bacio il piccolo cantore, intenerì i suoi amici, che dopo un po' dissero: «Sì, i sogni a volte sono menzogneri, annunciano il contrario di ciò che sta per accadere. La vita è, fortunatamente, più ordinaria e, oseremmo dire, priva di queste sorprese di immaginazione. discussero su ciò che era più opportuno fare. Mandare per prima cosa un messaggio a Don Mariano in Casoria, che era a poche miglia da Napoli, messaggio che lo assicurasse della pronta partecipazione alle sue ansie, come della sicura devozione dei suoi amici di Liegi. Non chiedevano altro che un qualche comando di qualsiasi servigio o favore occorresse per obbedire all'istante. Ciò fu fatto e un messaggero partì. Subito essi cominciarono a discutere della possibilità di raggiungere l'amico mercante nella stessa località delle sue afflizioni, Casoria, per informarsi personalmente dell'andamento della malattia e rinnovare le loro profferte di amicizia al fine di essere richiesti di un qualche servigio, come si erano già espressi nel messaggio un po' enfaticamente. Convennero presto che a ciò doveva essere designata una persona sola, e questa non poteva essere che l'amico più vecchio della famiglia, quello con maggiori diritti di anzianità, cioè Nodier. Presumibilmente poteva accompagnarlo Neville. «Perché non Albert?» osservò subito Neville, che non aveva troppa disposizione ad incontrare la signorina Elmina, la quale, a detta del messaggio, già doveva trovarsi col padre e Teresa presso la malata. Però, vedendo come Albert si turbava in volto, ed essendo quasi certo dell'imprudenza da lui commessa, risolse subito di aiutarlo, offrendosi di sostituirlo come visitatore a Casoria. Avrebbe accompagnato lui Alphonse. Era pronto. Albert lo guardò con infinita gratitudine. «È fatta», pensò il principe. «Egli ha portato la lettera al palazzo. La sua domanda di matrimonio è adesso solo in attesa di essere letta dal vedovo quando rientrerà». E subito gli si presentò alla mente un'idea acuta e indicibilmente atta a sollevarlo dalle sue preoccupazioni. Sarebbe rimasto lui a Napoli e, durante l'assenza dei suoi amici e di Don Mariano e le figlie dal pallonetto, si sarebbe recato al palazzo da parte di Dupré a ritirare con qualche scusa la lettera. Mai ricevuta l'imprudente domanda, il silenzio sarebbe sceso sulla proposta a cui si ispirava. E il lutto della famiglia civile e una sollecita partenza aiutandoli, mai e poi mai Dupré avrebbe rinnovato la sua richiesta della mano di Elmina, richiesta che di sicuro avrebbe considerato respinta. A questo punto non fu difficile all'audace Neville giustificare in qualche modo il suo repentino ripensamento riguardo alla proposta di sostituire Albert nella visita a Casoria. Si sentiva un po' stanco. «Era il più vecchio dei tre», disse, «e dopo tutto il meno adatto a consolare un dolore familiare. Sarebbe stato lieto, inoltre, che Albert si prendesse qualche distrazione», così disse, trascurando la tristezza dell'occasione. Lo vedeva un po' sconfortato. Dite, vedeste ancora, madre dura, figlia, perfida parti dei, perfida parti dei, misero parti dei. Dite, vedeste ancora, dite, un padre dura, figlia, perfida parti dei, misero parti dei, parti dei. Dove svenarti? Venarti allora, capisti al fine cinta, dite vedeste ancora, dite vedeste ancora, un padre d'una figlia, perdi dal par di lei, perdi dal par di lei, misero il par di lei. Il mutamento di programma turbò Dupré. Gli sentì una scusa, l'antipatia per Elmina, ma mai e poi mai, nell'assoluta incapacità di recare un fastidio o negare un favore all'amico adorato come il migliore dei fratelli, egli avrebbe discusso una preferenza o un desiderio di Neville. in silenzio obbedì. Così, poco dopo, mentre i suoi amici galoppavano verso Casoria, Ingmar si fece portare in vettura, non volendo essere eventualmente veduto, al palazzo e riottenne senza difficoltà dal custode, accennando una preghiera del mittente che intendeva ricopiare il messaggio, la lettera di Albert, ancora posato con altri su uno scaffale dove si trovava in attesa di essere ritirata dai domestici con la posta del giorno. Mentre ritornava, guardandosi curiosamente intorno per il vasto e fiorito cortile che già Alberta aveva attraversato e osservava l'altro su cui si affacciavano alcune finestre e balconi interni dell'edificio che lì faceva una rientranza, scorse a una finestrina di questo secondo cortile, piuttosto in basso, un volto che lo fissava. Provò un trasalimento. Era niente meno che rigido e attento il volto di Elmina. Gli parve che la giovanetta, muovendo appena quei suoi occhi che a lui sembravano di pietra, lo guardasse con rimprovero e soprattutto guardasse la lettera dello scultore che lui aveva ancora in mano. Si sentì, per così dire, perduto. Si sentì svenire. No, non fisicamente. Subito dopo si ricordò che Elmina era partita la mattina presto col padre Teresa per raggiungere la madre morente. Rallentò quindi il passo, sopraffatto se non soffocato da un altro pensiero. Che quel volto annebbiato e triste dietro il volto della finestrina non fosse un volto reale, ma solo un'immagine che lo aveva raggiunto attraverso lo spazio azzurro, inviata da un pensiero di Elmina alla casa di Napoli. Il suo cuore, se ne aveva uno, doveva essere là. Ingmar era avvezzo, fossero realtà o illusione, a questi misteri della psiche, in qualche modo ne traeva vanto e cupo conforto, ma stavolta si sbagliava. In due passi, il volto era sparito, tornò indietro e, chiesto al custode, quasi una dimenticanza glielo avesse impedito prima, quando sarebbe tornata da Casoria la signorina Elmina, si sentì rispondere che la signorina non aveva ancora lasciato Napoli a causa di alcune incombenze affidatele da suo padre, ma sarebbe partita in mattinata certamente o al più tardi sul mezzodì. Dunque era lei, e così dimessa, come sfrondata di ogni sua gloria giovanile, come una serva o una parente povera che non avevano ritenuto necessario presentargli la sera prima, ora in attesa forse di notizie a quella finestra solitaria. Ingmar non poteva crederlo. Scartando a questo punto l'idea così poco realistica, che pure gli era balenata, di una parente o addirittura di un'altra sorella, abitualmente nascosta, che viveva in casa ed egli aveva scambiato per Elmina, si confermò nella prima impressione che quella giovane era davvero Elmina, ma misteriosamente solitaria e indifferente. E questa certezza di essere stato visto e seguito con lo sguardo da lei, benché indifferente, mentre ritirava la lettera, gli apparve spaventosa. Inaccettabile era dir poco. Presto o tardi, complice il custode, si sarebbe risaputo che egli Neville aveva ritirato di sua iniziativa la lettera indirizzata al guantaio dall'entusiasta Albert, e ciò per nullificare la domanda di matrimonio. Sarebbe stato giudicato per ciò che gli era più intollerabile, intrigante, geloso e meschino. Non aveva giustificazioni, o si presentavano una più vergognosa dell'altra. Nella sua confusione decise quindi, in un istante, di sostenere, se domandato, che la lettera da lui ripresa era sua propria, ma consegnata imprudentemente da Albert. Sì, lui, Ingmar, avrebbe accennato alla lettera, anche se non richiesto, come una sua personale domanda di matrimonio per Elmina, poi ritirata a causa di un saggio ripensamento. egli, avrebbe sostenuto, non aveva mezzi atti a mantenere un impegno così grande come si presentava il proseguimento dello stato patrimoniale della figlia del guantaio. Era tutt'altro che ricco. Non sarebbe sceso in particolari, ma ecco, non gli era possibile un ardimento simile. Avrebbe poi confessato ogni particolare onestamente ad Albert, ma questi doveva impegnarsi a non più tornare sull'argomento, né svelare la verità della illimitata potenza finanziaria del principe, pena un'altra verità che riguardava lui stesso, Albert, e precisamente che Albert di suo non possedeva nulla e non poteva quindi rivolgere domande di matrimonio a signorine altolocate senza doverne arrossire. Così, dopo avere in realtà pochissimo pensato, quel principe, che dei principi nobiliari sembrava non aver mai saputo nulla, fece ritorno molto rasserenato alle stanze del Cappello d'Oro. Qui ordinò il pranzo, pernici e fragole di Sorrento, e lo consumò tranquillamente sfogliando un vecchio numero del Monitore. Uscì quindi di nuovo a passeggio e si sbizzarrì in piccoli acquisti, tra cui uno spadino d'argento per Albert e un bastone da passeggio per Alphonse, che molto li amava. Rientrando, lo raggiunse verso sera un accorato messaggio di Nodier. Donna Brigitte Helm aveva cessato di vivere. Egli, Alphonse, restava a Casoria con Dupré per essere di conforto all'amico, che però ha sopportato bene la sventura, e presenziare alle inevitabili cerimonie luttuose. A presto, quindi, mon cher Alphonse. Rispose con un altro messaggio il principe, e pensando che aveva davanti 2 o 3 giorni interamente liberi, si dispose a goderne visitando qualche dintorno di Napoli e anche alcuni divertenti signori del regno, per cui aveva lettere di presentazione. Thank you.